Melog, la realtà condivisa, di Gianluca Nicoletti. Ma che hai fatto? Tu non ci hai detto niente? Come non ce l'ho detto? Ce l'ho detto. Quella portata la mangiare solamente per lui. E mi ha capito male. E allora io che faccio? Io ce li metto l'acqua, il fuoco, il condimento, l'antipasto, la manifattura, questa per la sua bella faccia. Uno ti invita a pranzo e tu porti solamente il mangiare per te. E allora che facciamo qui? Giochetti? Abbi pazienza. Dovete capire che noi ci mettiamo l'acqua, il fuoco, il condimento, la manifattura e i famosi antipasti che fa mia moglie. Così. Ma tu non hai detto il mangiare. L'ho detto morti mangiare. Mia moglie ha messo l'usanza che quando viene un ospite, è vero, si fa la romana. Allora mettiamo l'acqua calda e l'ospite porta. Come si fa? Adesso si rimedia tutto, si rimedia tutto. Solo la morte non c'è rimedio. L'abitudine della casa. Abitudine? Tu sei una bicicletta, beh. Eh sì, qua non sai, la bicicletta va in paese, ma devi fare una volata, una corsa. E compra 2 chili di salsicce, bastano 2 chili. Sì, 2 chili, sì. Oh, vicino che ci vuoi un contornino. Patatine, patatine. Compra 1/2 chilo di patate. Ecco, 2 patate. 1/2 chilo di patate, 2 chili di salsicce e 2 chili di pasta. Di pasta, fatta una bucatina, che a mia moglie piace bucatina. Sì. Oh, la pasta come la faccio? Al burro. A te ti piace il burro? No. Sembra un paradosso, ma sono convinto che molte delle persone che mi stanno ascoltando sono trovate almeno qualche volta nella loro vita a contatto con persone così orrendamente schifose come quella che cerca di trasformare in una figura macchiettistica Totò, che invita il cugino, mi sembra di ricordare, è Totò Peppino la Malafemmina, a colazione a casa, e naturalmente l'usanza della casa che chi è invitato porti il cibo. Peppino si presenta con 4 spaghetti e una salsiccia e una mela, pensando dovesse portare soltanto la sua di colazione, ma in realtà deve provvedere a tutta la famiglia. Perché? Perché la famiglia ci mette il fuoco, l'acqua, i famosi antipasti della moglie. Un inguaribile esempio di taccagneria estrema. Beh, questa mattina voglio fare un'operazione, secondo me meriterebbe il plauso di attività altamente umanitaria, oltre che radio di servizio. Io vorrei confessare quella perfida e orrenda genia di esseri umani con i quali noi abbiamo contatti continui, quotidiani, che hanno come ragione della propria vita il risparmio estremo, l'austerità maledetta e coatta, che poi non importa tanto quanto fosse soltanto relegata a un loro personale uso e costume di vita, no, ma nella vita sociale, nelle contiguità con cui noi spesso, ahimè, incappiamo in persone così degenerate e così schifose, fanno ampia, anche se vergognosa, esternazione di questa loro attività. Questo è un momento molto particolare in cui soprattutto molti miei colleghi sono giustamente e in maniera corretta interessati nello scoprire le malefatte della casta del potere. Questo fa sì che molto spesso si senta e si legga persone con ruoli e incarichi istituzionali che hanno usato denaro pubblico per loro particolari usi quotidiani, che va fino all'acquisto del cappuccino, del cornetto, del caffè, qualcuno ha fatto sposare la figlia con i soldi della carta di credito istituzionale che deve usare solamente per uso naturalmente legato alla propria funzione. Beh, tutto questo è una giusta e meritoria operazione di sconfessamento e messa alla gogna di una classe politica indegna. Ma questo però causa un effetto di riflesso molto pericoloso su cui vorremmo riflettere questa mattina. Le persone che in realtà per tutta la vita hanno risparmiato, ci hanno reso impossibile, grigia l'esistenza con la loro taccagneria, limitando ogni intromissione della mano quasi rattrappita nella tasca dove sembrava che aleggiasse una vipera, beh, queste persone oggi vivono la massima gloria perché ci dicono: noi siamo austeri, noi stiamo seguendo il momento della crisi, facciamo quello che tutti dovrebbero fare, ma in realtà godono, fanno quello che loro hanno sempre fatto nella vita, solo che prima si vergognavano e oggi ne vanno fieri. Sono tempi grami per tutti, e lo sappiamo. Occorre essere sobri, e lo sappiamo. Ma l'essere spregevole, che da sempre ha il braccino corto, quello che non ti pagava un caffè nemmeno negli opulenti anni Ottanta, quello che riciclava i fiori del cimitero per omaggi amorosi, quello che fingeva di aver lasciato il portafogli a casa per farsi pagare il tramezzino. Non è giusto che ora questo individuo finga di essere consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti. Sappiamo che mente. Questo essere pidocchioso in realtà sta vivendo il suo momento più felice, in cui invece di nascondere la sua taccagneria può mostrarla con orgoglio. Oggi noi lo additeremo alla pubblica vergogna. Aiutaci a denunciare i peggiori spilorci che continuano a operare indisturbati con la scusa della crisi. E anche tu, spilorcio incallito, chiama per fare coming out in diretta all'800 24 0024, e non temere, la telefonata è gratis. 800 24 0024, ricordo naturalmente alla classe umana che questa mattina vorremmo rappresentare, svergognare, sconfessare, ma darle anche una possibilità di catarsi telefonando al nostro numero, che è un numero verde, un numero gratuito, potete tranquillamente chiamare, nulla sarà addebitato a vostro conto. Beh, non mi sembra che ci sia occasione migliore per parlare di questo annoso e terribile problema. Io ieri ho messo in rete l'annuncio che oggi avrei toccato questo argomento, sono stato inondato da testimonianze di persone, ma soprattutto donne, che hanno individuato un genere di maschio veramente deplorevole, con le quali però ancora riescono a avere contatti nella penura generale che esiste di maschi capaci di invitare una femmina a cena senza doverle far pagare la sua parte, o ancora peggio, senza farle pagare tutto, che si prodigano di essere loro sempre con la mano nel portafoglio, senza dire quella frase orribile che a una donna, secondo me, equivale a una coltellata al cuore: facciamo alla romana. Io di una cosa vado fiero: non sono mai stato molto ricco, oggi riesco a mantenere con dignità e decoro la famiglia. Mai, nemmeno nei momenti in cui ero studente, in cui non avevo una lira in tasca, ho permesso a una donna di pagarmi qualcosa. Voi direte è un atteggiamento regressivo che non tiene conto dei valori dell'uguaglianza, dell'emancipazione. Non lo so, forse è qualcosa che ho nel DNA. Lo trovo orrendo, schifoso, sedermi a tavola e poi permettere a una donna di mettere mano al portafoglio. Vincenzo, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti, salve. Siamo questa mattina, dobbiamo essere molto precisi, visto ci saranno molte richieste, molto sintetici e molto dettagliati nella denuncia. Sì, precisissimo sul tema. Questo è stato un matrimonio ante-crisi che... Spacciandosi per falso alternativo, praticamente aveva tutto del matrimonio, dagli sposi in abiti, la lista nozze con regali costosi, eccetera, eccetera. L'unica cosa che mancava, in effetti, era il vitto e persino le bevande, addirittura l'acqua per gli invitati. Tutto gabellato sotto la luce di rottura degli schemi, delle convenzioni, ma l'unica convenzione che è stata rotta è che noi non abbiamo mangiato e non abbiamo bevuto, ma gli sposi hanno avuto i regali con tutti i crismi, hanno fatto il viaggio di nozze con tutti i crismi e quant'altro. No, spieghi meglio come funziona. Vengono gli invitati, che hanno già naturalmente contribuito alla lista di nozze, quindi assolutamente comperato il vestito a tutta la famiglia, andati dal parrucchiere, speso. Tra cui purtroppo io, mia moglie e mia figlia all'epoca. Vengono gli invitati, dopodiché praticamente in questo albergo non c'è cibo. E cosa avete fatto? E abbiamo mangiato pochissimi dolci che erano stati messi a disposizione. Cioè quattro biscottini ammuffiti così. Sì, poi a un certo punto, insomma, il top è stato alla fine, perché sono uscite delle bottiglie di alcolici che erano già aperte, insomma, erano già state utilizzate da altri invitati in altri banchetti, senz'altro. Sì, questo è un classico, anche in un invito in famiglia, il pidocchioso, lo riconoscete, che finge di stappare una bottiglia che in realtà aveva già stappato in altre occasioni, magari rimboccata con l'acqua per risparmiare. La cosa terribile è stata la penuria dell'acqua. Perché non c'era neanche l'acqua e noi ci siamo trovati in difficoltà, perché attendavamo sempre che l'acqua uscisse. E tra l'altro io avevo la mia bambina, che era piccolissima all'epoca, e quindi abbiamo dovuto, diciamo, letteralmente mendicare l'acqua, e non abbiamo avuto quella cattiveria, ci è mancata sul momento di uscire e comprare una cassetta d'acqua minerale. Addirittura, invitati a un matrimonio, dovete prendere l'acqua per dissetare la povera bambina. Naturalmente il taccagno schifoso che questa mattina stiamo cercando di cogliere, pur mimetizzato dietro l'aspetto di vita austera, mi ha già scritto un SMS: sì, la telefonata è gratis, ma il tempo è denaro. È vero, il tempo è denaro, anche il minuto di chiamarci per fare la pubblica confessione della propria limitatezza di orizzonti mentali, erotici, sentimentali, perché il taccagno è taccagno in tutto. La donna taccagna è taccagna anche nella più sublime intima d'azione. Il taccagno lo è a 360 gradi. Salvatore, buongiorno. Buongiorno. condivido con quello che ha appena detto, nel senso che effettivamente il taccagno è taccagno in tutto. E porto la mia esperienza, le persone che frequento, i miei amici, sono veramente persone generose, perché penso che alla fine i taccagni si ritrovino tra di loro. Eh no, il taccagno deve avere sempre una persona. Ho episodi recenti di amici e amiche invitate da persone facoltosissime, blasonate, a prendere in lussosissimi caffè, aperitivi o non so, qualcosa del genere, dopo lunghe conversazioni, al momento di pagare, hanno visto sbiancare il taccagno. Tanto che non è che fa nemmeno la mossa, rimane lì sbiancato, paralizzato. E naturalmente, presi la pietà, vedendo una persona sul soglio di trapassare, dice: ma pago io. E improvvisamente torna il colorito in quelle guance. Naturalmente il taccagno ha passato grande rischio. Ma qualcuno che paghi ci vuole prima o poi. Chiaro, ma penso che le sue amiche non frequenteranno più questa persona. Quindi, sicuramente, sì, immagino. Quindi penso che una volta può succedere, poi una volta che lo si riconosce, lo si evita. Quindi la mia esperienza è che anch'io ho avuto a che fare con dei taccagni, ma una volta sola, poi basta. Se uno c'ha a che fare più volte, vuol dire che si deve fare delle domande, perché vuol dire che non li riconosce, perché vuol dire che forse anche lui in cuor suo è taccagno, perché nessun taccagno è convinto di esserlo, e questo credo il problema. Sì, pensa di essere economo, pensa. Esatto. Ma per questo io faccio questa mattina, oggi il taccagno galleggia in un habitat emotivo che è proprio, lui dice: ma io non sono taccagno, sono la persona che più rispecchia quello che è il dovere civico di ogni italiano, di essere austero. In realtà è all'apoteosi orgasmatica del suo vizio. Massimo, buongiorno. Sì, buongiorno, buongiorno Gianluca. Senti, io ti dico una cosa. Allora, io mi sono ritrovato un collega di lavoro che mi ha invitato a un happy hour. La cosa mi distrae. Che già in sé, se mi permette, è una maniera taccagna per evitare l'invito a cena. Sì, no, ma io ero un centro, questo camminavo, era un ex collega, diceva: ah, andiamo a prendere questo happy hour. Mi ha detto: guarda, io ho un telefono. No, vieni. Da primo l'ha preso uno, poi ha preso il secondo, allora ho cominciato a sospettimmi, beveva, poi ha cominciato a fare la tipica classica mossa della Macarena. Come si fa a ballare la Macarena? Che si comincia a tastare di qua di là, e mi ha detto: ah, mi dispiace, dicevo. Il taccagno è il rituale della Macarena, comincia a tastarsi cercando, sì, un portafogli che sa benissimo che non c'è. Sì. No, ora magari non si fa Macarena, insomma, mi ha lasciato da pagare 34 euro. 34 euro che io avevo fatto sinceramente a meno. Questo tutte le volte, sempre così. È sempre così. Altra formula suggerisco: aperitivo rinforzato. Quando vi invitano un aperitivo rinforzato, è una pidocchieria bestiale. Non invitare una persona se non puoi invitarla a cena. Aperitivo rinforzato vuol dire che vi danno il camparino o l'analcolico o lo spumantino sbollicinato, e vi ci mettono vicino due noccioline, quattro mandorle, due patatine mosce. Questo è l'aperitivo rinforzato. 800240024. Soprattutto mi interesserebbe sapere, tutte le signore che mi hanno scritto ieri elencandomi in maniera doviziosa quali sono le schifose gli schifosi escamotage dei maschi che al momento non vogliono mettere mano al portafoglio, di corroborarmi questa mattina con la loro testimonianza. Come scroccare la colazione al bar? Va al bar con due o tre colleghi di lavoro, di università o amici. Mangiati i gustosissimi cornetti caldi immersi nel caffè latte e aspetta che anche gli altri finiscano di consumare. Quando vi dirigete verso la cassa, abbi cura di prendere una posizione esterna al gruppetto. Mai in posizione centrale, ricordalo. Rischieresti di instaurare con il cassiere un rapporto di intimità monetaria. Parlerebbe con te. La posizione esterna ti permette invece di passare inosservato nelle retrovie. Quando è il momento di pagare, fingi di essere dispostissimo a saldare la tua parte di conto, però, ti accorgi che purtroppo hai solo un pezzo da 100 euro. Il barista inoltre ti sarà sicuramente complice, perché non vuole svuotarsi la cassa per darti il resto. Così saranno gli altri a offrirti. Non vorrei fermarmi soltanto al momento del pagare l'aperitivo, il caffè, la colazione, la cena. Vorrei allargare la sfera della taccagneria. Pensate che siamo in periodo natalizio e dietro la formula "un Natale austero" soltanto regali utili si nasconde l'apoteosi dell'espressione da taccagneria. Regalo utile significa comprarvi dei guantini alla bancarella degli indiani, ce n'è una qui a Piazza Indipendenza, con 2 euro e una carta riciclata dall'anno prima si può fare un lussuoso regalo utile. O un regalo tanto per farlo, si vanno sempre alle bancarelle dei cinesi dove sono pieni di sciocchezze a tutto un euro, una bella confezione fa sì che il taccagno possa onorare il Natale austero e godere profondamente della soddisfazione della sua nascosta vena di taccagneria. Fabrizio. Eccolo, buongiorno Nicoletti. Andiamo, cose toste. Velocissimo, allora, ex padrone di casa, straordinariamente ricco e completamente autonomo perché aveva l'orticello, faceva tutto. Un umarella a tutti gli effetti, sì. Assolutamente. Per risparmiare sul riscaldamento, lui andava a stufa a legna, quotidianamente andava a prenotarsi per le esumazioni al cimitero, recuperava le casse. No, questa è una bufala, me la sta raccontando. Assolutamente no, assolutamente. Cioè bruciava le casse impregnate di liquame umano. Esatto, lui andava al cimitero, vari cimiteri nel torinese, recuperava le casse dalle esumazioni, il denaro. Con ancora le unghie attaccate del morto resuscitato che si è trovato dentro la bara perché era morte apparente magari. È una cosa splendida, assolutamente. Lì ne fregava assolutamente nulla, prendeva il legno dalle casse distrutte e le bruciava nella stufa. Altro episodio magnifico, sempre. Così aveva anche, diciamo, l'illusione del profumo dell'arrosto in certi casi. Sì, può darsi, magari sì, con gli umori che si riversavano. Guardi, questo pensavo fosse un'attività criminosa relegata alla camorra, alla malavita organizzata. Ma che no, fanno il pane con i fondi. Il legno viene messo a disposizione perché o viene buttato in discarica o viene messo a disposizione. Sì, ma a parte quello che c'è dentro, quel legno, è un legno trattato con vernice all'esterno, non è adatto per bruciare, è orribile. Vero, perché ha esalazioni chimiche, è mica da ridere, ma fondamentalmente. Cioè, una camera a gas, una stufa in cui si brucia una bara, è una camera a gas, a parte quello che c'è dentro. Quello ha più di 80 anni e continua a campare felice nelle sue esalazioni. Evidentemente siamo noi che non capiamo nulla della vita. Questo e anzi, ha massacrato il nipote perché l'ultimo Natale si è presentato con un etto di prosciutto. Lui non si è mai osato andare a comprare un etto di prosciutto perché appunto è tutto in autoproduzione. E gli è costato la felicità del Natale. Perché era uno spreco. Quindi esistono persone così. È giusto che questa mattina ne parliamo. Grazie Fabrizio. Sì, lui è il top del top, secondo me. Grazie Fabrizio, questo è stato importante. Genzi, buongiorno. Ecco, buongiorno a tutti, eccomi qua. A proposito delle persone taccagne, volevo parlare anch'io. Sono di origine albanese, ma da 22 anni che vivo ad Asti, proprio ad Asti, non mi sono mai mosso. Da 20 anni che vado a pesca, a montagna, a laghi e fiumi, con un signore, con altri signori molto benestanti. E con noi veniva un signore anziano, 65-70 anni, che mi sembrava un barrotin, un taccagno, perché qui a Piemonte dei contadini chiamano un barrotin. Sì, non è una parolaccia, nel senso che non la capisce nessuno. Infatti non volevo offendere, però... No, ma tanto non la capisce nessuno. Ecco, dicevo, questo signore, povero Cristo, perché lo vedevo venire con... produceva litri e litri di vino con una bottiglia da 250 millilitri, si portava con sé, e né pane, né, perché tra i pescatori si usa portare prosciutto, panini e tutto, si mangia tra di noi, e lo vedevo sempre tirare fuori sto vino, e poi noi davamo chi il pane, io facevo magari, non so, tipiche della zona nostra e tutto. Passano i anni e tutto, mi ricordo un'altra storia, una volta che purtroppo la pesca era chiusa per maltempo, andiamo al ristorante, questo qua non c'aveva i soldi per pagare l'affare, gira rigira, ho dimenticato il portafoglio, ognuno si mette qualcosina, paghiamo anche il suo pranzo. Un anno fa lo incontro ancora. Scusi, mi arrivano gli sms, le persone indignate, cioè, sì, gli aperitivi sì, gli aperitivi rinforzati consistono in una bevanda assieme a tante cose a buffet, se non ha la possibilità di pagare una cena offre un aperitivo, caro Nicoletti. No, oggi non mi parlate di micragno, mi parlate di soluzioni micragnose. Uno offre una risata, offre un sorriso. Aperitivo rinforzato è una parola che mi fa venire l'aggrovigliamento delle viscere, non si dice aperitivo rinforzato. Cos'è il rinforzino? Rinforzino è quella terribile cosa che nel film Amici miei e Tognazzi e chiedeva agli amici quando veniva a casa sua, quindi portare un cartoccino con 2 fettine di salame, una fettina di stracchino per rinforzare quello che era la frittatina che lui faceva per gli amici. Aperitivo rinforzato è una parola da non usare, chi la usa già triste nell'anima. Prego, vada avanti, Gens. Eccomi qua, poi di due in due secondi finisco. Allora, un signore portava il pane da Torino per dare ai cani, il pane che lo facevo magari con un botto di carne e tutto, e lui veniva a chiedermi, mi dai anche me per i miei cani? E io, mia mamma addirittura ha sempre dato delle borse. Poi incontro il suo vicino che erano sempre lì e dice, ma i cani suoi sono morti. Mi chiedeva il cane per il pane per mangiarselo. Ah sì, chiedeva l'avanzo per i cani, che è una scusa che tasso mangiava lui. Mi scrive un'altra ascoltatrice, ma pregherei di averle come telefonata, mi piace sentire la viva voce. Mia suocera a Natale mette in tavola il solito vasetto di olive del discount che non si apre mai, il pandoro che non si apre a meno che non lo mangiamo, e per dolce un gran soleil da 1 euro, pidocchiosissime anche a Natale, e i soldi loro non mancano. Sono tempi grami per tutti e lo sappiamo, occorre essere sobri e lo sappiamo. Ma l'essere spregevole, che da sempre ha il braccino corto, quello che non ti pagava un caffè nemmeno negli opulenti anni Ottanta, quello che riciclava i fiori del cimitero per omaggi amorosi, quello che fingeva di aver lasciato il portafogli a casa per farsi pagare il tramezzino. Non è giusto che ora questo individuo finga di essere consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti. Sappiamo che mente. Questo essere pidocchioso in realtà sta vivendo il suo momento più felice, in cui invece di nascondere la sua taccagneria può mostrarla con orgoglio. Oggi noi lo additeremo alla pubblica vergogna. Aiutaci a denunciare i peggiori spilorci che continuano a operare indisturbati con la scusa della crisi. E anche tu, spilorcio incallito, chiama per fare coming out in diretta all'800 24 00 24 e non temere, la telefonata è gratis. Mi stanno segnalando fantastiche occasioni di spilorceria. Li riconoscete a quei rinfreschini che vengono fatti in ogni ufficio, in ogni luogo di lavoro in occasione del Natale. C'è sempre la persona più volenterosa che chiede 1 euro, 2 a testa o 10 euro a seconda dell'importanza dell'ufficio. Già lì vedete che il taccagno elude questa colletta, finge di non esserci, dice te li porto dopo, non li porta. Ma nel momento dello strafogamento lo riconoscete. È quello che si ingozza più di tutti, che si mette le fette di pandoro in tasca, che si porta a casa il torrone, magari lo rincarta e poi ne fa omaggio ai propri figli. Ecco, riconoscete il taccagno anche in occasione delle festicciole di Natale nel vostro ufficio. Poi vedo una carenza di donne, non ha telefonato nemmeno una femmina. Ieri mi hanno riempito di messaggi denunciando quello e quell'altro dei loro amici, dei loro drudi, dei loro fidanzati mariti, taccagni, tirati, che le portavano fuori, non gli davano nemmeno un bicchiere d'acqua. Beh, dove siete finite? Vi vergognate? Siete così generosi, volete proteggerli anche in questa giornata di pubblica esecrazione? Paolo, buongiorno. Buongiorno, Nicoletti, buongiorno. No, bella la sua ultima notazione sul fatto che telefonano molti uomini. Mia moglie, per esempio, che è diciamo il soggetto di questo piccolo episodio, che è la padrona di casa, molto generosa, casa molto grande, a Natale si sta dentro, tutti qui in collina vengono, insomma, si intrigano delle persone che non ci stavano onestamente, eravamo già troppi a casa, venite, non venite, non ci si starà in piedi, ma no, veniamo in ogni caso, alla fine non vengono in 2, vengono in 4, in 5, i parenti di questo nostro amico, che portano una salamina, un piccolo salamino che su dalle nostre parti da fare col purè, lo mettono, è carino, insomma sarà grande, un chiletto e mezzo in frigo. Siccome c'è roba iosa, si festeggia tutto, l'ultimo dell'anno, baci e abbracci, a un certo momento vedo che qualcuno va nel frigo, è uno di questi ragazzi che era venuto, che manco lo conoscevamo, andavamo... Si riprende il salame, no, non me lo dica. Sì, si prende il salame. Si riprende il salame. Che non le telefono oggi a caso per questa cosa qui, perché se ne parla. È successo 5 anni fa, prima ancora che arrivasse mio figlio, e se ne continua a parlare. Anzi, qualcuno che anche quest'anno qui verrà su, chiede espressamente di far arrivare un invito in modo che queste persone si ripresentino per vedere se riescono di nuovo a fare un gesto del genere. Beh, guardi, le inviterei a casa mia, gli revenite, portate la salamella, la lascerei intonsa e libata dentro il frigo per vedere il momento fatidico in cui, vergognoso, con gli occhi bassi, strusciando lungo le piastrelle della cucina, va a riprendersi la salamella. Ma nel frattempo potreste irrorarla con particolari e fantastici farmaci come Guttalax e via dicendo, così oltre alla vergogna di portarsela a casa ne avrebbero un fantastico effetto. Non avete pensato a qualcosa del genere? Lei è cattivo, ma io ero più cattivo di lei, perché anzi più cattivi di lei lo siamo noi, perché qualcuno aveva anche avanzato un'ipotesi del genere. Non è difficile che possa ricapitare. Comunque niente, ci avete pensato, quindi chiaro. Sì, bene, abbastanza. Mi fa piacere questo. Federico, sì, questa è veramente bella. Questa è bella, sì, perché... Buongiorno. Sì. La zia di mia mamma, che aveva una certa età, comunque aveva fatto la guerra e via dicendo, di fronte a mio cugino, che non voleva farsi fare l'iniezione, quelle iniezioni che si facevano con quelle... con le siringhe di vetro, nel bollitore, naturalmente. Esatto, si bolliva, sì. Esatto, bolliva dentro con l'astuccio di alluminio, eccetera. Sì. Già ci spaventava vedere quella cosa di alluminio che si apriva con un terribile manichetto. Con l'alcol sulla chiappa, con il batuffolo di cotone, eccetera. Mio cugino è fuggito e allora mia zia, non sapendo cosa fare, si fece l'iniezione lei, per non sciuparla. Per non buttarla via, certo. Mica so. Questa è bellissima. E che tipo di farmaco era? Ma secondo me, ci stavo pensando, ma poteva essere una roba tipo un ricostituente. Sì, allora andava molto di moda. Ogni tanto si faceva qualche puntura ricostituente, non serviva a nulla, però facevano malissimo. Niente. E quindi per non buttare via si è sparata la siringa alla signora, mi sembra giusto. Grazie, Antonio. Antonio. Buongiorno. Sì. Che devo dire, io la faccio più grande e dico che prima che c'era crisi, che c'era tanto lavoro, capito, e tutti tiravano indietro, adesso che ce n'è poco tirano indietro ancora, sì. Quindi pigli sta barca o va bene così o va bene così o salti la finestra. Esatto, parlo in genere per tutti i settori lavorativi. Bene, e allora devi accettare la barca che c'è. Va bene, capito? auguri. Flavia. Buongiorno, io volevo presentare tutta la mia indignazione verso questa tipo di... Finalmente chiama una donna, perché... Flavia, mi spiega perché le femmine questa mattina sono così reticenti a denunciare quello che per forma scritta mi hanno ampiamente denunciato ieri. Ascoltiamo molto, ma purtroppo spesso rimaniamo silenti, anche come casalinghe, per esempio, perché io mi ritrovo ad ascoltare... Siete verbalmente taccagne, stessa. Però sì, forse per timidezza, per quanto mi riguarda, ma comunque io oggi volevo portare gli esempi, che sono molteplici. Mi trovo circondata proprio da tanta gente che ha questa caratteristica. Mi parli dei pidocchiosi della sua vita, allora, forza. Sì, no, spregevoli, peccato, perché poi è anche gente, tanti amici, tanta gente a cui io voglio molto bene, che continuo nonostante ciò a frequentare anche da anni, e però trovo veramente riprovevole questo tipo di comportamento. Porti esempi, Flavia, esempi concreti. Esempi, uno in casa, purtroppo il compagno di mia madre, che sono insieme da anni, da 20 anni circa, che addirittura quando ci ritroviamo tutti insieme... E non riesce neanche a fare una spesa, ma approfitta di quello che io e mia sorella e mia madre stessa ci ritroviamo a fare. Si compra una bottiglia di vino ogni tanto, è proprio, che poi ovviamente beve anche lui, è proprio grasso. Quindi, che cola. Non porta mai nulla a casa. No, ma sono quegli aspetti, ripeto, lui pratica molto l'austerità, come parlavamo, come dicevamo un poc'anzi. Ma uno può essere austero per se stesso, dire io faccio una vita austera, ma come fa a non condividere quel pochissimo che mai potrà essere il limite delle sue risorse? Non voglio dire, non sono per lo scialacquio. Neanche io. Ma mi sembra banale condividere la gioia di un caffè con un'altra persona, il minimo che uno può fare. Ma io cerco di prendere questo determinato esempio di austerità, c'è di buono, c'è qualcosa di buono in questo. Bisognerebbe, soprattutto ai tempi di oggi, avere un modo più austero di vivere la vita. E per quanto io possa accettare questa condizione e imitarla anche, Ma in alcuni casi. Ma non sente questo alone di ghiaccio e di riluttanza a condividere anche semplicemente un sorriso che sta attorno a questa persona che viene sempre a casa e non porta mai nulla, non mette mai nulla sul tavolo di suo? Sì, purtroppo si tratta proprio di aridità propria. E perché se lo tiene sua madre? Scusi? Perché se lo tiene sua madre? È perché comunque noi siamo molto croce rossine, forse gli fa tenerezza, forse ormai sono passati tanti anni, comunque apprezza alcune altre caratteristiche che lui ha. Che non vogliamo sapere, chiaro, non vogliamo sapere. Va bene, ci fermiamo qua, grazie. Grazie Flavia. Che... lo so, è brutto, lo so, fa male, ma avrà, come dice lei, altre caratteristiche che sua madre apprezzerà. Stefano. Buongiorno, Stefano da Verona. Io volevo raccontare una cosa che mi è accaduta una ventina di anni fa. Io ero un volontario in un corso di assistenza di Verona. Mm. E siamo stati chiamati in un quartiere popolare di Verona, molto povero comunque, per una signora che era deceduta in strada. Quando siamo arrivati in pronto soccorso, che hanno spogliato la signora, dentro la borsa aveva titoli, libretti e aveva un corpetto strapieno di soldi, qualcosa come 400-500 milioni addosso, in un quartiere in cui gli scippi erano giornalieri. Beato chi l'ha raccolta, nel è senso... stata una barzelletta di Verona, perché fermi tutti, usciti i carabinieri, controllati noi, perquisiti noi che non avessimo preso dei soldi, e poi a distanza di una decina di giorni sono comparsi 20-30 nipoti da tutta Italia che reclamavano. Questa signora, i vicini gli pagavano le bollette, la San Vincenzo gli portava da mangiare. È stata la barzelletta di Verona, è stata una cosa... diciamo, questo è l'aspetto patologico più estremo del taccagno. Il taccagno, se non ha qualcuno, se non ha delle croce rossine come l'ascoltatrice che ha parlato prima, che si occupano di lui, finisce così, finisce farcito dei suoi soldi, dei suoi averi, dentro i vestiti e morto di fame su un marciapiede. Nessuno ti ama, vive alle spalle degli altri e tieni stretto, come con l'illusione di potertelo portare chissà dove, il tuo denaro. Questa è la fine del taccagno, molto edificante, un episodio di cronaca abbastanza consueto, tanto mi ha trovato un clochard che era pieno di soldi, ma è un lato patologico estremo. La patologia in realtà, nelle sue forme più lievi, si manifesta quando questa persona sembra una persona qualsiasi come un'altra, ma questa sorta di impedimento fisico proprio nel portare la mano nella tasca dove sta il portafoglio. Mauro, buongiorno. Buongiorno. L'attendiamo. Allora, io ho da denunciare pubblicamente, la ringrazio per l'occasione, un parente, un fratello che... Ma lo faccia, questo è il momento, sotto Natale è il momento in cui bisogna dare addosso ai parenti. Esatto, esatto. Questo fratello è uno spettacolo. Le cito due episodi. Il primo, che non ho vissuto direttamente, ma che fu uno dei primi a lasciarmi a bocca aperta, mio fratello fu uno dei primi ad acquistare uno di quei personal device assistant, questi piccoli tablet del passato, per la prima vacanza con quella che poi divenne sua moglie, per poter registrare tutte le spese, caffè inclusi, per poi poter fare una divisione equa e solidale con la futura moglie. Che l'ha sposato nonostante questo? Assolutamente. Sapendo che si proponeva un avvenire di tristezza. Dunque, un'amica mi ha avvertito che spesso molti colleghi con cui esce hanno delle particolari app scaricabili sugli smartphone più noti, con le quali si inseriscono tutti gli scontrini che si spendono, e quindi capita che nel momento che dicono alla collega siamo nell'ambiente bancario, vieni ti offro un caffè, poi prendono, guardano l'app, controllano, dice no, guarda, ho sforato il mio budget quotidiano, adesso devi pagarlo te. E questo trovo che sia il massimo dell'abiezione applicata alla tecnologia e al web 2.0. Sono tempi grami per tutti, e lo sappiamo. Occorre essere sobri, e lo sappiamo. Ma l'essere spregevole, che da sempre ha il braccino corto, quello che non ti pagava un caffè nemmeno negli opulenti anni Ottanta, quello che riciclava i fiori del cimitero per omaggi amorosi, quello che fingeva di aver lasciato il portafoglio a casa per farsi pagare il tramezzino. Non è giusto che ora questo individuo finga di essere consapevole dei sacrifici che ci vengono richiesti. Sappiamo che mente. Questo essere pidocchioso in realtà sta vivendo il suo momento più felice, in cui invece di nascondere la sua taccagneria può mostrarla con orgoglio. Oggi noi lo additeremo alla pubblica vergogna. Aiutaci a denunciare i peggiori spilorci che continuano a operare indisturbati con la scusa della crisi. E anche tu, spilorcio incallito, chiama per fare coming out in diretta all'800 24 0024 e non temere. La telefonata è gratis. Capisco che è vergognoso per una donna ammettere questo, capisco che telefonino poche donne. Mi scrive su Facebook Michela, parla di un suo ex fidanzato pidocchiosissimo che, siccome la portava in giro in macchina, quando cambiava il treno delle ruote gli faceva contribuire con 50 euro a ruota della macchina. Perché? Perché la portava in giro, dice 50 euro a ruota, le metti pure te. Ma che gusto vi darà mai scopare con uno del genere? Questo mi domando, scusate la crudezza della domanda, ma non vi si affaccia il fantasma terrificante di un episodio del genere? Come hai fatto, Michela, Pia, a stare con un fidanzato del genere? Antonino. Buongiorno. Buongiorno. Sì. Ah, io sono un rappresentante di materiali per ufficio, tra cui appunto carta, sedie, controlli, tutto quello che può servire in ufficio. Stupito un giorno che titolare di un'azienda di autotrasporti con 70 automezzi, auto di lusso a volontà, lui, la moglie, il fratello, tutti quanti hanno denaro. Al momento di ordinarmi la cancelleria, mi ha detto: guarda, no, i rotoli per la calcolatrice non mi portare, perché li uso fronte retro. No, non è possibile. Cioè, li rigira. Esatto. Cioè, allora, di peggio c'è soltanto riciclare la carta igienica, che è l'ultimo stadio. Penso che faccia anche quello. Vabbè, immagino. Le dico solo questo. Che già mi ha scritto un ascoltatore dicendo che il nonno diceva: quando andate in bagno usate solo uno strappo di carta igienica. Esatto. Qualunque cosa sì, facciamo. Magari con le mani anche, però vabbè. Sì, poi... In ogni caso la ragioniera poverina, rossissima di vergogna, la ragioniera dell'azienda, e effettivamente mi ha mostrato come ha imparato a usare appunto la carta fronte retro, ma non solo, era stato addirittura capace di, facendo operazioni con poche cifre, di riutilizzare una facciata addirittura due volte. Ah, avanti, quindi quattro volte ci lavorava con un rotolo. Esatto, un rotolo. Vabbè, questa gente camperà malissimo, non lo so. Non so che vita possa fare e come potrà godersi i giusti proventi della sua azienda con 70 automezzi. Gianluca. Nicoletti, buongiorno. Sì. Niente, io volevo raccontare, volevo parlare di mia nonna. Mia nonna è una donna che ricicla i piatti di plastica. Cioè lava i piatti di plastica. Sì. E li mette nella credenza, ma non solo. Utilizza i barattolini da yogurt come bicchieri. Ma questo usava negli anni 50, mi ricordo. Fa questo. E da premettere che mia nonna guadagna, però ha 1.900 euro di pensione. Ecco, non pensiamo che sia una morta di fame. Cioè, no, in no, no, no, bene. Ma non solo, addirittura ha delle case che è fitta per il periodo estivo. Quindi voi non sperate altro che schiatti prima possibile, diciamo la verità. Ma diciamo che io sono sposato e un figlio, e nel periodo natalizio devo andare a prendere il regalo di Natale che è 5 euro. Quindi, gli dà 5 euro in mano? Sì, 5 euro. Dice, spendili bene. Sì, ma io non li do nemmeno al parcheggiatore che sta sotto al palazzo, perché è incredibile, ragazzi. No, sono contento che stamattina sento persone sorridere, quindi significa che comunque presa positiva della vita quotidiana a volte può essere anche indipendente dalla disponibilità eccessiva di denaro o scarsa di denaro. Io penso si possa essere generosi, non taccagni, anche se si ha un budget ristretto. Non importa, l'importante è la disponibilità. Federico. Pronto? Sì. Sì, Gianluca, buongiorno, sono Federico, ti seguo dai tempi del Golem, bravo. Ti volevo fare i complimenti. Ascolta, io ho un collega che così, più che altro è la moglie che, diciamo, è figlia d'arte. Lui mi racconta degli episodi, ma molto così, papale. Mi racconta di episodi di sua spirocceria della famiglia, ma faccia esempi concreti, schifosi. Quasi normalmente. Allora, lui quando va al ristorante praticamente prende la bottiglia del vino, anche se sono rimaste quattro dita, parlo di vino che poi un cabernet a 8 euro da un ristorante. E se la porta a casa. E se la porta a casa, e questo è un esempio. A parte vorrebbe finire di berzela, perché lasciare una bottiglia a metà quando si va al ristorante è idiota, sì, perché poi, il bello è berzela, comunque. Ma il problema è anche vero che questo, cioè, se ho pagato lo porto a casa, ma avesse bisogno, perché ha diciamo i soldi fino a sopra gli occhi, come si dice. Un altro piccolo episodio è avvenuto qualche anno fa, verso la fine degli anni 70, c'era un contadino che faceva mangiare pane e mortadella alla propria famiglia, aveva due figli. Quando è morto per un previsto infarto, gli hanno smurato all'epoca, fino agli anni 70, 60 milioni dentro casa. Cioè lui murava i soldi, praticamente. Beh, così era un sistema antisismico probabilmente nella sua mente, non lo so. Sì, sì, poi ovviamente aveva un conto in banca dove c'era l'unico titolare, era lui. Beh, il giorno dopo che è morto i figli hanno comprato due Alfa 75, me lo ricordo come... E sono partiti sgommando alla faccia, alla faccia del taccagno. Mi sembra giusto. Fermiamoci. L'ultimo, Stefano, ristorante? Sì, buongiorno. Sì. Pronto? Stefano, la sto sentendo. Ascolti, niente, sì. Io volevo fare presente di una situazione che ci è capitata diversi anni fa ed era sempre a seguire, diciamo, ogni qualvolta veniva a mangiare da noi. Avevamo un cliente che in poche parole, pur presentandosi in 3, 4, 7, 10 persone, faceva sì che ogni qualvolta si sedesse, insomma, era lui ad ordinare. E arrivava al culmine poi quando logicamente era il momento del dolce, dove magari ordinava, non so, una fetta di dolce oppure un tartufo, e chiedeva 4 cucchiaini o 5 cucchiaini, qui si era arrivato proprio al limite. Beh, il tipico pidocchioso del ristorante si riconosce. Pensi che a me capita purtroppo la cosa inversa, io spesso per tanti anni ho lavorato in trasferta, quindi mangiavo forzatamente al ristorante, e la voglia di mangiare al ristorante ti passa dopo una settimana che mangi sempre fuori casa. Ero costretto a ordinare lo stesso perché non riuscivo a sostenere lo sguardo del cameriere che mi guardava come un pidocchioso. Ogni mattina vado sempre allo stesso bar a fare colazione, prendo spremuta, cornetto e caffè, costa circa 5 euro, 4,50 euro. Quando non mi va la spremuta, una volta lui mi ha detto: ma come, vuole risparmiare? Da quel giorno prendo sempre la spremuta, anche se molte volte mi fa acidità e non la prendo. Ringrazio Stefano, siamo arrivati alla fine, sì, la sigla ci porta via, ahimè. Volevo risparmiare il più tempo possibile nella mia taccagneria di parola, ma questa mattina la sigla mi impone di lasciare ai taccagni la loro impunità, perché questa mattina in realtà l'abbiamo svergognati ben pochi. Avrei voluto ucciderne molti di più. A domani.